Storielle. Storiacce. Di Roberta Giordano. Cosa potrei dire per darvi qualche indizio iniziale dell'ospite di oggi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori? Potrei dire che per lui, molto probabilmente, noi siamo figli delle stelle, come diceva una bellissima canzone di qualche anno fa, ed è anche uno che si occupa di previsioni, non sono però previsioni del tempo, potremmo dire previsioni dei tempi che devono venire. E così, ospite? Sì, è giusto, ti stavo ascoltando perché è molto piacevole sentire quello che dici, anche perché parli in maniera splendida di me, quindi io, insomma, sarei rimasto in ascolto per un bel po'. No, ma adesso tocca a te invece dare tre aggettivi per definirti, sono curioso di sapere un po' come ti riassumi. Allora, guarda, può sembrare strano, ma sono molto umile, nonostante, quindi umile senz'altro, sì, troppo sì, no, perché sì. Alla fine nella nostra società è bene vendersi al massimo, invece io sono un po' umile, quindi tutti i piccoli o grandi successi che ho avuto, in fondo sì, non ci credo, dico beh vabbè sì, d'accordo, però non è niente, invece poi gli altri mi dicono ma guarda che hai fatto tanto e così via. Poi generoso, perché sono molto, un po' spendaccione, ma proprio generoso anche nei confronti degli altri, se c'è qualcuno che ha bisogno, così. E poi sono terribilmente ansioso, quello è forse un lato brutto del mio carattere, qualsiasi cosa faccio, dal prendere, che ne so, un'iniziativa, o firma, per carità, poi firmare una carta, cose così, divento super sospettoso di tutti. Però questo significa che ogni volta che tu devi prendere una decisione scruti le stelle? Assolutamente sì, pensa che un paio di anni fa io ho fatto un passo perché insomma era ora che prendessi una casa, ho chiesto un mutuo, non era il periodo giusto, avevo Saturno opposto, era il periodo in cui gli acquari, io sono acquario, erano un po' nervosi, e tant'è che Ospetec, che è acquario pure lui, c'è un film sì. Sopra Saturno contro, ecco, avevamo Saturno contro, e insomma alla fine è diventato un disastro, è stata un'epopea, ci sono voluti un anno e più per prendere questa casa che poi alla fine ho dato via, insomma un disastro. Non era nata sotto buoni auspici. Ecco, la cosa che però è interessante, che io dico sempre, non credete ma verificate, io stesso lo faccio, quindi ci sono dei momenti buoni per agire e altri in cui è meglio che le cose vadano per il proprio verso. Qui un po' più prudentemente. E chi può parlare così se non Paolo Fox, certo. Il volto più noto dell'astrologia italiana. Paolo, tra l'altro, che fa varie trasmissioni radiofoniche, televisive, quella più in vista, insomma, Mezzogiorno in Famiglia, no? Che fai sì, su Rai 2. Però, torniamo un po' indietro. Intanto qualche altro indizio l'hai dato, nel senso che sei dell'Acquario, io dico che sei nato a Roma, no? Corrisponde sì, a verità Roma, questa sì. Cosa. Classe 1961. Ahimè. E però quello che incuriosisce, a parte che vi ricordo che appunto, essendo Paolo Fox l'astrologo più amato dagli italiani, è appena uscito il suo libro Paolo Fox l'oroscopo 2009. Ma stai attento, Paolo, che io farò un po' l'avvocata del diavolo in questa chiacchierata con te. Perché ti dirò che io ho intorno le mie sorelle, mia madre, che sono pazze di te e dell'astrologia, tante amiche, soprattutto le donne, devo dire, anche gli amici che si interessano alle stelle, alle previsioni, sentiamo Fox, io sono proprio scettica, quindi sei capitato proprio con una... Guarda, gli scettici si dividono in due grandi gruppi. Sentiamo. Quelli che proprio non vogliono vedere, che sono proprio ostili a priori, e quelli non mi piacciono. Poi ci sono invece quelli che tutto sommato dico io non ci credo, però fammi sentire di cosa parli, e quelli in fondo mi piacciono, perché alla fine mi somigliano. Allora io credo che ti piacerò, un po' sì, un po' no, probabilmente, perché poi ti dirò che lo trovo curioso, che lo trovo divertente, che a volte effettivamente vedo delle cose che corrispondono, però è nella mia natura in generale essere così molto molto scettica, per certi versi razionale, poi per altri naturalmente la sensibilità, l'istinto. Però Paolo, ricordavamo appunto che sei nato a Roma 1961, e quando hai cominciato a sentire che questa poteva essere la tua strada? No, è strano, perché uno da piccolo dice farò l'ingegnere, farò l'insegnante, che sia bambino o bambina, farò l'avvocato, cioè farò l'astrologo. Come ti è venuta questa cosa? Ma guarda, io non l'ho mai deciso, la cosa bella è questa, e a 16 anni ho cominciato per caso a leggere dei libri di astrologia, ma anche per effetto contrario, cioè volevo in qualche modo, sembravo un membro del CICAP, cioè volevo in qualche modo sfatare quelli che cercano di mostrare il contrario, appunto. Ecco, poi invece piano piano mi sono reso conto che c'erano delle cose interessanti, e non, come direbbe qualche cattivo scettico, perché virgolette ho cominciato a guadagnarci, perché io non ci guadagnavo una lira, tutti gli oroscopi erano gratis, i miei primi approcci in televisione sono stati proprio per un pezzo a titolo di pane, gratuito. Quel tempo, perché ormai si può parlare di un tempo passato, e cioè negli anni Ottanta, la televisione non era come adesso, cioè l'astrologo che appariva nella TV privata non pagava lo spazio per poi far venire la gente nel suo studio, cosa che è successa dopo. Dopo, sì. Allora erano le TV che, non avendo nessun tipo di programma, ti pagavano per intrattenere il pubblico con l'oroscopo. Quindi io ero piccolissimo, avevo 20-22 anni e facevo i programmi, mi ricordo venne Gepi, lo intervistai, tutti i gruppi musicali del momento, era diventato un momento di svago, anche un po' contrari erano i miei familiari. Chiamavano quelli della TV e gli dicevano: basta, mio figlio deve studiare con queste stupidaggini. Quindi, come vedi, non c'è mai stata una vera e propria scelta. Poi però, siccome c'è un destino, io ci credo. Tu ci credi? Ecco, infatti poi ti vorrò chiedere tra destino e caso un po' cosa. Però tu, credendo nelle stelle, probabilmente credi anche nel destino, no? Diciamo subito una cosa, c'è un grande destino e quello non lo decidiamo noi. Io perlomeno sono una persona, ha una sua fede, credo, quindi ritengo che ci sia qualcuno che più in alto di tutto, figuriamoci poi dell'oroscopo, ancora di più, decide se noi dobbiamo star sulla terra oppure no. E così si spiegano, tra l'altro, anche perché cioè, voglio dire, quando succede un grande evento in positivo o in negativo che coinvolge centinaia di persone, non è che tutti hanno l'oroscopo negativo o tutti hanno l'oroscopo positivo. Infatti, no, uno dice com'è che funziona così? Esatto. Quelli sono i grandi eventi, un terremoto è una cosa che non riguarda l'oroscopo personale. La situazione invece dell'oroscopo riguarda un piccolo destino, e io, per fare un paragone, sai che mi piacciono molto le metafore perché si capisce meglio anche quello che uno vuole spiegare. Sì, immagino un'automobile, quando tu sali in automobile hai il tuo navigatore e imposti la via. Ecco, l'astrologia è quel navigatore, però poi è normale che tu devi salire in macchina sobrio, devi rispettare i semafori, non devi girare agli incroci senza cioè dando la precedenza, devi stare quindi rispettando le regole, stando vigile. Sì, no, è chiaro, ecco, è chiaro. Quindi questo è il discorso. Allora, nel mio oroscopo ho un Nettuno che rappresenta l'astrologia proprio nel settore del lavoro, e ho dato spazio a questa cosa. Forse studiare il proprio oroscopo e capire da che parte devi andare è molto importante, perché altrimenti magari io potevo fare anche una vita da impiegato. Io ho iniziato facendo l'impiegato, poi ho smesso, quindi ho rinunciato anche a un posto fisso sicuro per seguire questa strada, e se avessi fatto quel lavoro avrei tradito un po' la natura del mio oroscopo e forse sarei stato infelice o depresso. Ecco, meno male Paolo Fox non lo è per niente infelice e depresso, ha seguito la sua strada. Non sono stato per amore, però adesso è finita, no? Adesso sono contento. Allora poi parleremo anche d'amore. Storielle, storiacce. Siamo sempre qui a Storielle, Roberta Giordano con voi, a rimirare le stelle, ascoltatrici e ascoltatori, perché c'è Paolo Fox, l'astrologo più amato dagli italiani, che ci stava un po' spiegando come è arrivato a fare di questa passione un mestiere, no? Perché si diceva prima, quando uno è piccolo, da bambino, difficilmente, no? Dice da grande farò l'astrologo, ma ci ha spiegato un po' come è avvenuta questa cosa, no? Avevi cominciato a 16 anni così a leggere delle cose, poi piano piano. Ma tu dicevi che sei dell'acquario e quindi hai studiato un tuo oroscopo per capire che questa era la tua strada, quindi prima di tutto l'hai fatto su te stesso. Sì, è successo così. Poi è chiaro che l'interpretazione viene anche strada facendo. Adesso dovrei entrare in dettagli tecnici, però per esempio io ho un mercurio dominante in astrologia. Mercurio rappresenta la scrittura, i libri, e io ho fatto il liceo classico, scrivevo molto bene, le professoresse mi dicevano: ah, ma tu dovresti scrivere delle cose, ma mai mi sarei immaginato che poi il successo con la scrittura sarebbe stato l'oroscopo 2009, infatti, il libro che è appena uscito. Cioè, ti dico subito che il massimo di tiratura per un libro di astrologia negli anni è stato di 10.000 copie, e qui siamo arrivati quasi a 140.000. Accidenti! Si parla di una cosa molto importante. Un bestseller, anche insomma. Prima sono umile e lo ridico, per cui vivo questa cosa come una cosa, come posso dirti, quasi che non mi appartiene. Guarda, ti posso dire una cosa. Dimmi. La realtà dei fatti, perché questa cosa io la faccio con passione, perché molti astrologi arrivano, soprattutto in televisione, non tutti, perché ci sono delle persone capaci e molto brave, però molti sono arrivati all'astrologia in televisione facendo altri lavori prima, non dico per ripiego, però non è stata una passione iniziale. Io penso invece che chi ci ha creduto da sempre e poi porti questo messaggio in maniera più entusiasta. Ma io voglio sapere, dagli oroscopi che tu ti facevi all'inizio, hai detto che sei iniziato più o meno a 16 anni, si capiva questo, che avresti avuto così tanto successo? Ma guarda, io ti ho detto, ho sempre vissuto questa cosa con una umiltà che mi è tornata indietro negativamente, perché mi ricordo che quando andavo a fare anche i provini in Rai o altre cose ero molto timido, e poi magari c'era qualcuno che si vantava, faceva il grande, allora dava più affidamento, si metteva, no? Un po' più in ombra. Quindi, e lui sembrava più, più in luce, faceva più scena. Quindi no, non ho mai avuto questo sentore, e anche oggi ti ripeto, la casa editrice mi chiamano: Paolo, ma non puoi capire, le copie è un successo, una cosa. Io ti sento: sì, ma non ne stampate troppi, perché poi che fa? Cioè, io vivo così questa cosa, tant'è che sto in campagna, quindi è tutta una strada che ancora sto percorrendo in maniera un po' come se fossi sotto ipnosi, non lo so neanche io. Senti, però in campagna le vedi meglio le stelle, no? In campagna sì, e poi soprattutto io ho un rapporto molto particolare appunto con tutto ciò che è naturale, sono molto amante della natura, sì, delle stelle, e poi sai che insomma cani, gatti, io non potrei vivere senza animaletti attorno. Che sono sempre una presenza così rasserenante e così arricchente, no? Gli animali. Sì, io vabbè, adesso dovrei parlarti di una cosa, non so se la tua trasmissione... Ma ruota libera, ruota libera. Diciamo, attorno ai 20 anni ho avuto una serie di problematiche familiari tali per cui mi sono ritrovato completamente solo al mondo, ma senza parenti, senza nessuno, senza proprio niente, fratelli, niente. Morale, ho vissuto per molti anni con un gatto. E questo gatto, insomma, posso dire, è stato mio fratello, 18 anni. Può sembrare ridicolo, però eravamo molto complici, nel senso che, vabbè, poi avevo rapporti con esseri umani, per carità. Però a casa mi aspettava questo gattone. E allora, quando sei un po' solo, quando non hai riferimenti familiari, ecco, capisci che molto spesso lo dicono le persone che hanno gli animali, dicono, cioè, magari che l'animale ti può dare più affidamento a volte delle persone. Allora, tutto sommato, dico, va bene, è bello anche avere un buon rapporto con la natura. No, ma questo è vero, e poi tra l'altro hai fatto bene a dirla questa cosa, non soltanto perché dà il senso di quanto può essere davvero importante un rapporto forte d'affetto, di rispetto con un animale, e quanto può darci. Quindi non sei uno che è nato con la camicia, insomma, ne hai avute di traversie, no, anche tu, Paolo Fox. No, e penso anche tra l'altro che il mio amore per l'astrologia sia stato causato anche un po' in parte da questo, nel senso che col fatto che molte persone poi mi chiedevano l'oroscopo, alla fine io ricevevo attenzione, e naturalmente quando tu cresci a 20 anni senza tanti riferimenti familiari, è normale che tu cerchi anche un po' una famiglia. Ora questa famiglia si è un po' allargata, molto, milioni di persone, però va benissimo, sono molto contento, anche perché poi la gente per strada non è che mi dice signor Fox, oppure la vedo sempre, no, sembra quasi uno di famiglia, Paolino, così mi fanno. Allora questa cosa a me... L'amore, come mi andrà? Ecco, ma invece io volevo chiederti questa cosa, col mio scetticismo, il fatto di credere nell'astrologia, negli oroscopi, nelle previsioni astrologiche, non rischia di deresponsabilizzare un po', no, dalla propria vita, dalla volontà esercitata sulla propria vita, affidarsi a un disegno delle congiunture determinate dalle stelle? Non c'è questa... Come la propongo io? No, perché tu sai che il mio motto è non credete ma verificate. Ma verificate. Quindi io dico proprio questo. Non è per mettere un po' le mani avanti, magari, dire io lo dico, però se non si avvera, no, non è questo. No, è il contrario, perché anzi mi metto in gioco, perché ti dico, se non verifichi, non mi seguire più, non comprare più i miei libri. Anzi, mi sembra un atteggiamento molto più carino rispetto a chi magari fa io vedo che tu, e non ti dà possibilità di agire. Cioè, le persone che si comportano in questo modo plagiano, no? L'astrologia non è quello che ti succede, ma è come, diciamo, un po' la previsione del tempo. Se tu vuoi, puoi anche uscire senza ombrello quando piove, però poi se ti raffreddi sono fatti tuoi. Te l'avevano detto. È una sorta di avviso, ecco. E poi, guarda, non ci dimentichiamo una cosa ancora più importante. La previsione è un lato dell'oroscopo, ma c'è lo studio della personalità che è molto interessante, che non è una bazzecola, perché ci sono stati personaggi come Jung che hanno studiato a fondo questa cosa. Poi ripeto, provare per credere. Però c'è un rapporto abbastanza ravvicinato, secondo me, soprattutto per chi è piuttosto intelligente, da astrologo, da astrologa, tra l'astrologia e la psicologia, no? Un po' lo stavi dicendo. Certo, è chiaro che io non mi vanto di essere psicologo, perché quelli sono altri studi e tutta naturalmente un'altra, sì. Ecco, però certamente ci sono dei riscontri oggettivi, perché chi dice, ah, tanto, non so, se leggi l'oroscopo ti dicono sei sensibile, sensibili siamo tutti, e questo sono d'accordo, ma se tu leggi profili veri a livello astrologico, oppure fai semplicemente mente locale su quelli che sono, ecco, prendiamo i personaggi televisivi, ecco, li conosco. Se tu pensi per esempio a Paola Perego, Simona Ventura, sono tutte dell'Ariete, Mina, sono tutti personaggi molto determinati. E certo. E così se fai conto, ecco, i Sagittari, tu sei un Sagittario. Io sono un Sagittario. Un segno libero indipendente. Molto. Gianni Morandi, Tina Turner, Maria De Filippi, Sandro Maier, tutti personaggi che hanno, diciamo, una voglia di innovazione eccezionale, che poi riescono nella vita a fare grandi cose, soprattutto grandi esperimenti che gli riescono. Oppure dei Capricorno, che sono molto determinati, capo della Confindustria, Emma Marcegaglia, ecco, però un Capricorno. Senza Gemelli non ci sarebbe la televisione italiana, perché i Gemelli sono il segno della parola, il segno della comunicazione. Baudo, Bonolis, Buongiorno, Carrà. Quasi quasi mi convinci in questa cosa. Il prossimo è un anno molto importante. Bilancia, Gemelli, Acquario hanno, diciamo, le carte in regola. Poi, ecco, io ricevo delle lettere che mi fanno cadere le braccia. Per esempio, qualche giorno fa ricevo un'email, in particolare sul giornale dove scrivo, di una signora Ariete. Siccome io ho detto che il prossimo sarà un anno migliore rispetto a questo, mi ha scritto: ah, il mio uomo mi picchia, sono 10 anni che non ci vado d'accordo, allora l'anno prossimo, siccome è un anno positivo per l'Ariete, finalmente lui cambierà. La risposta è no, cambia uomo. Bravo. Senti, tu prima dicevi che sei credente, questa cosa non ti è mai parsa in contraddizione col fatto di affidarsi alle stelle, Paolo Fox? No, perché lo studio delle stelle non pregiudica il fatto che ci sia qualcuno che, insomma, le ha create anche, no? Sarebbe come dire che il meteorologo sfida le leggi divine solo perché vuole vedere se domani piove oppure no. Il vero problema è quando l'astrologia diventa superstizione, quando ci sono purtroppo tante persone senza arte né parte, mascalzoni nel vero senso della parola, che la fanno diventare un tramite per la magia, per vendere, che ne so, fatture, malocchi. Senti, ma è vero, allora quindi dice che l'anno buono, l'ho letto diverse volte, è quello che ti cambia dentro. È vero, infatti io dico che nell'anno buono tu puoi sposarti ma ti puoi anche separare. Entrambe le cose possono dare grande soddisfazione, dipende, capisci? Certo, è l'anno che ti dà il cambiamento. Molti dicono: ah, non ho vinto il Superenalotto, non ho avuto grandi promozioni, ma non è quello il senso. Il senso è appunto l'anno che ti dà la possibilità di capire anche se ci sono delle cose che vanno tagliate, e poi sta a te. Il coraggio è tuo, il libero arbitrio è tuo. Certo, quello che succede domani non lo posso dire io, non lo può dire nessuno, ecco, nei dettagli. So che tu non puoi anticipare molto, Paolo Fox, del libro appena uscito, l'Oroscopo 2009. Complessivamente, se dovessi dire... Beh, è chiaro che abbiamo una situazione di grande interesse per tutti i segni di aria, e comunque questo Giove in Acquario rappresenta un elemento di fortuna, se vogliamo, anche per l'Italia in genere. Io mi auguro che, nonostante qualche problema economico, Giove è opposto all'oroscopo dell'Italia, però si riesca ad andare avanti piuttosto bene, insomma. Senti, Paolo, qui... Questa che senti è la lampada di Aladino, la lampada magica. Ora, senza scrutare le stelle, ma chiedendo direttamente al genietto dentro la lampada, Paolo Fox, che cosa chiederebbe ancora? Guarda, mi hai preso proprio in contropiede. Una cosa. Io ho realizzato molti sogni, quindi attualmente vivo sereno. Posso devolvere il desiderio? Libero, liberissimo, certo. Ecco, allora, lo devolverei a favore delle persone che non stanno bene, e, se mi permetti, anche a favore degli animali. Un po' più di rispetto per gli animali, che potrebbe significare anche rispetto per le persone, perché chi non ha rispetto per un cane, per un gatto, per qualsiasi animale, sicuramente nella vita non avrà neanche rispetto per i suoi simili. Quindi mi auguro che ci sia questa illuminazione, ecco, che coinvolga un po' tutti. Credo che sia proprio un bel desiderio. Grazie Paolo Fox, buone stelle allora. Grazie anche a voi, un abbraccio forte. Grazie. Ciao Paolo.